1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, sono le 7:19 minuti. Forza, amici debosciati miei. Dai, come state? Allora, siamo qui, avremo ospite più avanti con Oscar Giannino Gerardo Bianco, che è il presidente degli ex parlamentari, eh? La vicenda Boeri che propone di tagliare i vitalizi, tra l'altro su questo c'è Matteo Renzi che non è molto contento, pare. I giornali raccontano di un rapporto tra Renzi e il presidente dell'INPS così un po' ballerino, dopo che Renzi stesso lo ha sponsorizzato molto. Ora invece pare che i rapporti tra i due siano un po' più difficili. Comunque parleremo di questo, ma delle tante notizie che ci sono sui giornali, anche la vicenda del Vaticano, dei corvi in Vaticano, è la notizia con cui apro la maggior parte dei giornali che andiamo a leggere. Siamo qui allora in questo martedì 3 novembre, il Sole 24 Ore apre sullo scontro Renzi-Regioni su sanità e rischio tasse. E ovviamente la legge di stabilità è sullo sfondo. Poi la vicenda del Vaticano e dell'arresto di due corvi, questo è il titolo più gettonato. Corriere della Sera, arrestati due corvi del Vaticano. Così Repubblica, arrestati corvi del Vaticano. Per il Fatto Quotidiano, il Papa arresta le gole profonde, ecco il libro sui furti in Vaticano. Il Messaggero, rubati i segreti del Papa, due arresti. La Stampa, Vaticano in manette un prelato e una donna, svelate carte segrete. Per Libero sono i Giuda di Francesco. Il Giornale, il Papa ne arresta due. Avvenire, furto di fiducia, divulgazione di documenti, due arresti in Vaticano. Come vedete, la maggior parte dei titoli sono su questo. L'Unità invece apre sulla rivolta di Bagheria con l'ex feudo di Provenzano, dove imprenditori coraggiosi fanno arrestare 22 mafiosi dicendo pagavamo il pizzo da anni. Però questa fuga di notizie che ha portato due arresti in Vaticano è davvero una notizia con cui aprono molti quotidiani. Come racconta la cronaca Carlo Marroni a pagina 8 del Sole 24 Ore, due arresti, il fatto clamoroso che ha deflagrato in tutto il mondo riguarda ancora una volta la sottrazione e divulgazione di notizie e documenti riservati. Due persone arrestate dal Vaticano sono un prelato in vista, Monsignore spagnolo Lucio Ángel Vallejo Balda, e la consulente di pubbliche relazioni Francesca Sciauchi. Entrambi, tra loro molto legati, erano componenti della disciolta Commissione per le riforme degli enti economici che dal luglio 2013, quasi un anno, ha lavorato su dossier dei vari dicasteri. Dunque avevano accesso a dossier più riservati. Arrestati, ora si vedrà, in genere quando c'è l'arresto in Vaticano si fa per motivi molto gravi. Per la verità, il Monsignore è da due giorni nelle carceri vaticane. Francesca Sciauchi invece è stata rilasciata, anche perché dal Vaticano dicono ha collaborato. Lei invece, raggiunta da Gian Guido Vecchi a pagina 3 del Corriere della Sera, dice io sto benissimo, completamente, scandisce, estranea ai fatti. È il Monsignore che ha cercato di tirarmi in ballo, capirà, c'è un clima molto brutto. Mi raccomando, è la premessa di Sciauchi, è tutto off the records, cioè non stiamo facendo un'intervista, però in realtà parla velocissima della situazione. Ho dato tutta la mia collaborazione, mi hanno scarcerata, tra l'altro non sono mai stata in cella. Mi hanno chiamato la gendarmeria dicendo «Dottoressa, c'è bisogno che venga qui» e io dopo 20 minuti stavo là. Gentilissimi i gendarmi, è un comportamento esemplare da grandi professionisti, questo va detto. E poi però, dopo queste dichiarazioni, ancora ribadisce Francesca Sciauchi, è il Monsignore che se l'è presa con me, io non c'entro nulla. C'è un profilo di questa donna, molto chiacchierata da quando divenne consulente in Vaticano. Un clima di lunghi coltelli, racconta Gian Guido Vecchi. Eppure questa giovane donna di San Sosti, provincia di Cosenza, sposata con un ingegnere informatico, figlia di un'italiana e di un egiziano che l'abbandonò alla nascita, ebbe da tempo la protezione di Monsignor Lucio Ángel Vallejo Balda, l'altro arrestato, e già allora la nomina in Vaticano di Sciauchi appariva bizzarra, scrive il Corriere. Anche i sanpietrini sapevano ciò che si diceva in quella zona grigia che a Roma pullula di gente pronta a millantare agganci in curia. E cioè si diceva che quella giovane PR faceva da fonte di alcuni giornali e siti di pettegolezzi, delineando scenari da spy story tra servizi segreti vaticani, squadre di corvi. E poi c'erano i suoi tweet. Su Twitter, molto attiva, quando fu arrestato l'allora Paolo Gabriele, cioè il maggiordomo di Ratzinger, un suo tweet: Paolo Gabriele non è il corvo. E poi ancora tweet nei quali diceva il Papa: Papa Ratzinger è affetto da leucemia da oltre un anno. E lei, accusata di questo, dice: ma no, alcuni tweet non erano miei, mi sono entrati nel profilo. Poi diceva: ho riportato quello che si diceva in Vaticano. Insomma, una persona molto chiacchierata, soprattutto quando fece un buffet da 18.000 euro durante la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, una sorta di ricevimento VIP sulla terrazza della Prefettura degli Affari Economici, mentre un milione di fedeli stava pigiato in piazza. Quello fu un po' la goccia che fece traboccare il vaso dei rapporti suoi con il Vaticano. Comunque, la PR tra bilanci e pettegolezzi, il suo profilo, il profilo di Francesca Sciauchi, lo trovate a pagina 3 del Corriere della Sera. Intanto parla Gianluigi Nuzzi, collega, giornalista, che ha scritto due libri già molto importanti sul Vaticano e che tra un paio di giorni esce con un altro libro, Via Crucis, nel quale ci sono altri documenti ricevuti da fonti. Ora c'è da dire: sono queste le due persone arrestate le fonti di questo libro? Beh, Nuzzi non lo conferma, ovviamente. Viene intervistato sia da Libero sia dal Fatto Quotidiano, dice: racconto le ruberie sulle elemosine dei nemici del Papa. Questo per esempio è il titolo dell'intervista al Fatto Quotidiano. Così come viene intervistato Emiliano Fittipaldi, che ha scritto anche lui un libro, collega, e che uscirà tra un paio di giorni, dal titolo Avarizia, e anche lui dice: racconto come i soldi della carità siano spesi dai monsignori e quelli dei bambini siano spesi per l'attico di Bertone. Insomma, sono due libri che promettono grande scandalo e grande scalpore sui temi della gestione finanziaria in Vaticano. E tra l'altro Gian Antonio Stella, pagina 6 del Corriere della Sera, racconta che in un'anticipazione del libro Via Crucis di Gianluigi Nuzzi, che esce per Chiare Lettere, che addirittura il Papa attuale, Papa Francesco, sarebbe stato registrato in un colloquio privato, cioè registrato di nascosto. E in questo colloquio privato Francesco dice e ce l'ha coi conti e i costi fuori controllo del Vaticano. Questi gli stralci del colloquio di 16 minuti, una riunione a porte chiuse convocata per discutere il bilancio, in cui il Papa dice la sua: bisogna chiarire meglio le finanze della Santa Sede, si è allargato troppo il numero dei dipendenti, un aumento in 5 anni del 30%, e mi dicevano: ma vengono con la fattura e noi dobbiamo pagare. No, dice il Papa in questo colloquio riservato, non si paga. Se una cosa è stata fatta senza un preventivo, senza autorizzazioni, non si paga. Ci vuole chiarezza. Questo si fa nella ditta più umile e dobbiamo farlo anche noi. Quindi questi sarebbero i contenuti del colloquio privato del Papa, registrato e pubblicato nel volume Via Crucis di Gianluigi Nuzzi, che uscirà nei prossimi giorni. Davvero un clima molto molto pesante, come un clima pesante c'è nel mondo del calcio. Eppure Tavecchio non molla. Non solo Tavecchio, dopo questa registrazione è finita sui giornali, sul Corriere della Sera, nella quale registrazione Tavecchio dice ebreaccio di un immobiliarista di Roma, e parla anche di omosessuali in toni un po' esagerati, per così dire. Tavecchio resiste. Il CONI peraltro è impotente. Il presidente del CONI Malagò dice: non possiamo fare nulla, di fatto. Si può, e dal punto di vista tecnico ha ragione Malagò, cioè si può commissariare una federazione sportiva solo per gravi inadempienze, gravi irregolarità di gestioni, non perché c'è un presidente che dice quel che dice, e anzi Tavecchio, che ha preso il tapiro da Staffelli, ma vabbè, va avanti con un nuovo trofeo evidentemente, dice: se vorranno sono pronto a ricandidarmi. Ci sono tanti articoli ancora su questa situazione. Malagò che dice: frasi inaccettabili, ma non si commissaria la FIGC. Questo è il titolo di pagina 21 del Corriere della Sera. A proposito però di calcio, eccolo qui l'articolo che ci fa tenere le mani sul volante, l'articolo che ci fa più pensare della giornata, e questo è proprio da mani sul volante a tutto tondo. Che cosa ti ha combinato il presidente della Lazio, Lotito? Lotito Fast and Furious, da Roma a Salerno sfidando l'autovelox con folli corse a 226 km all'ora. Pagina 23 di Repubblica, Valerio Berruti. Repubblica è venuta in possesso della bufera sul presidente della Lazio che con il suo autista avrebbe preso 64 multe per un totale di 251 punti della patente sospesi, 251, 70.000 euro per la verità le multe sono precise, non pagate alla Toyota Italia per eccesso di velocità. Eccolo qua, Claudio Lotito, da latinista incallito, accumulatore di cariche federali, ora accumulatore di multe in una romanesca capitolo di Fast and Furious, con gli autovelox che lo hanno fotografato ben 64 volte mentre sfrecciava in alcuni casi a 226 km orari lungo la A1 all'altezza di Caserta, diretto chissà dove. Sommando le infrazioni, il presidente più veloce d'Italia, anzi il suo autista, ha collezionato la perdita di 251 punti sulla patente. Ma signora, ma che fa? Ma metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia! Oh ragazzi, c'è Alessandro! Ma chi è Alessandro Magno? No ragazzi, l'altro Alessandro! Ma chi è Alessandro Volta? Ma chi è Alessandro Manzoni? Ragazzi, Alessandro Milan! Chi? Vabbè, insomma, un abbraccio contenitivo, caro ascoltatore, ti voglio molto bene. Allora, continuiamo nella nostra lettura dei giornali. C'è lo scontro sulla legge di stabilità tra le regioni e Renzi, lo scontro che ieri ha fatto esplodere di colpo Chiamparino, presidente della regione Piemonte, di fatto ex presidente dei governatori perché si è dimesso dalla presidenza della conferenza Stato-Regioni. Manovra scontro regioni Renzi, tutti i particolari sono di Roberto Turno a pagina 3 del Sole 24 Ore. La manovra mette a rischio il sistema delle regioni, così Sergio Chiamparino boccia al Senato Italia le regioni della manovra 2016 a partire da quelli alla sanità e chiede un incontro urgente al governo. Detto fatto, Palazzo Chigi è pronto a convocare i governatori già domani, solo che Renzi fa filtrare: ora con le regioni ci divertiamo, ma sul serio. Perché aggiunge: sulla sanità ci sono più soldi di prima e le tasse non possono aumentare. Dunque questo è lo scontro che si profila, le regioni che chiedono un incontro e Renzi che sibila questa frase: con le regioni ci divertiamo, ma sul serio. C'è tutta l'analisi dei governatori che attaccano: per noi la spending review passa da 3,9 a 7,1 miliardi tra il 2016, per i ministeri scende da 3,1 a 1,7. Insomma, le regioni accusano gran parte della spending review e della revisione della spesa, dunque dei tagli alla spesa, li paghiamo noi. Monica Guerzoni racconta a pagina 9 del Corriere che quella frase che Renzi lascia filtrare da Palazzo Chigi, proprio ora con le regioni ci divertiamo ma sul serio, sono parole forti, inusuali, che raccontano lo stato d'animo del Premier in questa giornata che ha visto la legge di stabilità attaccata da ogni parte, sia dai tecnici del Senato, sia dai leader sindacali, poi da Confindustria e poi Sergio Chiamparino, la goccia che ha fatto traboccare un vaso già stracolmo. E ancora Renzi che dice: piuttosto elimino gli sprechi, ma non consentirò alle regioni di aumentare le imposte ai cittadini. Non si possono scaricare sempre le problematiche sugli italiani. E dunque si aprirà una nuova partita? certamente le premesse ci sono tutte. Per la verità, una nuova partita si è già aperta da un paio di giorni, evidentemente con il presidente dell'INPS, Tito Boeri, tra Renzi e Boeri. Racconta in un retroscena molto interessante Federico Fubini sul Corriere della Sera, siamo a pagina 8, che c'è un dossier che Tito Boeri, presidente dell'INPS, ha dato e consegnato al presidente del Consiglio, a Palazzo Chigi, già da qualche mese. E si rischia una sorta di dossier Cottarelli. Vi ricordate il dossier Cottarelli, ex capo della Spending Review? Era l'ultimo dei grandi misteri presunti della politica economica italiana, racconta il Corriere. L'allora commissario alla Spending Review Cottarelli si era dimesso senza pubblicare il suo rapporto sulla spesa da tagliare. Ora rischia di partire una nuova saga con ingredienti simili. Perché? Perché c'è una audace idea di riforma di un tecnico, Tito Boeri, e la frenata del governo di fronte alla prevedibile impopolarità della riforma. Che succede? Succede che in estate Boeri aveva presentato al Premier una proposta di riassetto dell'intero sistema previdenziale, un documento ben strutturato, arricchito da una corposa relazione tecnica, consegnato senza spedizione elettronica per il timore di fughe di notizie. Oggi hanno quel dossier solo Boeri e i suoi collaboratori e Renzi e i suoi collaboratori. Pochi conoscono i dettagli di questo dossier. Di questo dossier forse è uscito qualcosa quando Boeri ha detto 2 giorni fa la volontà di tagliare i vitalizi ai politici, la volontà di tagliare le pensioni più alte se sono molto sopra i contributi versati. Ci sarebbe però anche un'altra parte più corposa volta a finanziare le uscite precoci per i pensionati sopra i 1.500 euro lordi al mese e anche un sostegno standard per i disoccupati oltre i 55 anni di età. E cos'è la proposta di Boeri? Beh, Boeri propone un blocco dell'adeguamento all'inflazione delle pensioni sopra i 3.500 euro lordi, fino a quando l'assegno non sia in linea con i contributi realmente versati. Si pensa anche di ridurre le integrazioni delle pensioni bassissime di chi vive in famiglie abbienti e soprattutto si suggerisce un ricalcolo delle pensioni anticipate solo sulla base dei 42 anni di contributi. Questo sarebbe contenuto nel dossier, a questo punto dossier segreto, dossier misterioso, fatto da Boeri, consegnato a Renzi e al momento sconosciuto. Anche Libero racconta il grande gelo tra Renzi e Boeri, il governo pensiona Boeri, il suo piano è incostituzionale. Cioè Palazzo Chigi non vuole tagliare né i vitalizi, perché teme la bocciatura della Corte Costituzionale, né gli altri assegni previdenziali. E dunque c'è il rischio di un nuovo fronte interno di gelo. Invece si procede sulla vicenda di Roma, dove il prefetto Tronca ha preso ormai possesso della città e ha incontrato Renzi, si mette appunto la squadra. Renzi, che tra l'altro ieri non si è lasciato sfuggire una frase molto molto al vetriolo nei confronti del suo stesso partito a Roma, perché ha detto che il PD a Roma è dilaniato da correnti interne, sono più divisi delle contrade del Palio di Siena, solo che, aggiunge Renzi, almeno lì a Siena c'è una tradizione, una storia e uno spettacolo unico. Insomma, Renzi, che nel campanilismo toscano difende Siena piuttosto che il PD romano. Questo vi fa capire che giudizio possa avere Renzi del PD a Roma, PD che è il suo stesso partito, ricordiamo. Ma su Roma la notizia più importante è che è stata diffusa, ormai è nota, la lista dei 101 dirigenti citati all'interno della relazione che ha dato il via, relazione del prefetto che ha dato il via a Mafia Capitale. Tutti i nomi vengono pubblicati, Libero li mette proprio, no, il Giornale, ecco qua, pagina 4, li mette proprio tutti, dalla A alla Z. Chi sono i 101 tra consiglieri comunali, regionali, funzionari dell'amministrazione capitolina travolti dall'inchiesta giudiziaria del sistema Buzzi Carminati? Beh, ci sono nomi anche importanti come Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, ma non solo. Si leggono, scrive Repubblica, il suo ex tesoriere, ex amministratore delegato di Euro, Mancini, ex consiglieri comunali come Sveva Belviso, che era ex vice sindaco di Alemanno, Massimo Caprari, capogruppo del Centro Democratico, Alessandro Cochi, PDL, Mirko Coratti del PD, Francesco D'Ausilio, ex capogruppo PD, Alfredo Ferrari, sempre del PD, Luca Gramazio, Luigi Nieri di SEL, vice sindaco di Marino. Insomma, ce ne sono un po' davvero per tutti i gusti. Viene intervistato su Repubblica Lionello Cosentino, a pagina 13, che dice: beh sì, Salvatore Buzzi lo conosco da 20 anni. Fino a un anno fa Lionello Cosentino era il segretario del PD a Roma. Oggi invece, dice lui, faccio cose, vedo gente, sono in giro. Così si presenta a Mauro Favale su Repubblica a pagina 13. Che effetto le fa essere in questa lista di 101? Ma nessun effetto, nessuna preoccupazione. Non so cosa sia questa lista, ma se si è limitata a registrare i fatti non ho nulla da temere. Ma lei era amico di Buzzi? Veramente era Buzzi a dire di essere un mio carissimo amico? Io lo conoscevo come presidente di una cooperativa che dava lavoro ai detenuti. Insomma, diciamo che Cosentino dice non c'è nessun problema e in 3 anni di inchiesta non c'è nulla su di me. Comunque c'è questa linea e questa lista dei 101. A proposito, c'è anche una pazza idea per Roma. La pazza idea, la racconta Il Foglio con Salvatore Merlo, è, udite udite, candidare per il PD a candidato sindaco. Chi? Massimo D'Alema! Massimo D'Alema, sindaco di Roma. Questa è la pazza idea, ma neanche tanto, scrive Il Foglio, candidare D'Alema a Roma. Di certo qualche problema invece ce l'ha Alfio Marchini, che secondo Berlusconi fino a 2 giorni fa era il candidato ideale. Poi lo stesso Berlusconi pare abbia letto un paio di interviste di Alfio Marchini questo weekend e abbia definito lo stesso Marchini arrogante e supponente. E dunque nel giro di 48 ore pare che Berlusconi abbia cambiato giudizio su Alfio Marchini e quindi Alfio Marchini scende nel borsino di centrodestra e sale Giorgia Meloni. Caos in Forza Italia, Berlusconi ci ripensa, Alfio è un arrogante, questo è il titolo di Repubblica, pagina 17, anche qui ne vedremo delle belle di cose altalenanti. Così come ne vedremo delle belle evidentemente a livello processuale all'interno della Lega, dove sta succedendo un po' un pandemonio, perché ci sono ora i legali di Umberto Bossi contro gli attuali vertici della Lega. Bossi chiede 60 milioni a Salvini e Maroni. La questione è quella dei rimborsi elettorali che sono arrivati, dicono i legali di Bossi, quando al comando c'erano già Salvini e Maroni, e dunque ecco la situazione: vecchia Lega contro nuova Lega, truffa dei rimborsi, Lega in pezzi, questo è il titolo del giorno, insulti e carte bollate tra Bossi e Salvini. Anche l'Unità dedica pagina 2-3 a questo tema, altro che scopa, la truffa non è finita, c'è la famosa scopa in mano a Maroni. Camera e Senato, parte civile contro la Lega, restituite allo Stato 59 milioni di rimborsi elettorali incassati legalmente. Insomma, c'è una grande diatriba all'interno della Lega. Ma è il momento del... Mamma mia, non ce la faccio più, ce la faccio più! E datemi questo benedetto traffico! Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Welcome back, my friends, to the show that never ends. Ladies and gentlemen, Alessandro Milan! Dialetto di Buckingham Palace. Beh, mitico il dialetto di Buckingham Palace! Grande! Grazie, nostro ascoltatore carissimo, forse da Londra o forse no. Allora, continuiamo la lettura dei giornali per raccontare che c'è questa notizia di cronaca che ha molto risalto giustamente sui giornali, è il fatto cioè che 36 imprenditori abbiano denunciato a Bagheria in provincia di Palermo l'ex feudo di Bernardo Provenzano, come siano stati vessati per anni con il pagamento del pizzo. Ora si sono ribellati, una notizia importante. Bagheria si rivolta contro il pizzo, a pagina 29 del Sole 24 Ore Nino Amadore racconta la storia emblematica di una persona che ha pagato per 30 anni, schiavo dei ricatti e delle minacce dei boss. E c'era ancora la lira quando ha iniziato a pagare. Erano gli anni 80 quando versò il pizzo. Certo, il clima era completamente diverso da quello di oggi. Con la mafia non si discuteva, si obbediva e basta. Lui, Domenico Toia, era un imprenditore edile di Bagheria, ha pagato in silenzio 3 milioni di lire al mese alla famiglia del reggente del mandamento che era in carcere, ha anche versato a Cosa Nostra significative percentuali dell'importo degli appalti aggiudicati, pagamenti continui fino a dissanguarsi. 3 milioni al mese lo ha dovuto fare lui e dopo la morte il figlio che porta il suo nome. Sembrava una cosa scontata nel pesantissimo mandamento mafioso della provincia di Palermo che fu rifugio dorato del latitante Bernardo Provenzano e che a lungo è stato luogo di latitanza per Matteo Messina Denaro. La piovra mafiosa gli ha succhiato il sangue portando Toia al fallimento, prima la chiusura dell'azienda, poi la vendita dell'abitazione per far fronte alle richieste estorsive, infine la richiesta dei boss di 2 milioni di euro per uscire da una società che hanno raccontato i pentiti era solo dell'imprenditore. E lui, Toia Junior, cioè il figlio, è uno dei 36 imprenditori che hanno denunciato e detto di no a mafia e racket. Tra l'altro, Tommaso Toia, il figlio di Domenico, quello che 30 e più anni fa iniziò a pagare, parla a Repubblica. Intervistato da Salvo Palazzolo a pagina 10, dice: io me la ricordo come fosse ieri quell'estate in cui fui bocciato al liceo. Avevo 14 anni, mio padre mi mandò in cantiere e quell'estate scoprì cos'era la mafia. Era la fine degli anni 80, mio padre aveva dovuto assumere una quindicina di persone imposte dai boss di Bagheria, ma io questo non lo sapevo ancora. Vedevo operai che trascorrevano il giorno a ricevere persone anche di un certo livello, ma non erano operai, erano mafiosi. In azienda venivano solo per tenere le loro udienze. E poi un giorno è accaduto che eravamo al ristorante che avevamo rilevato, ormai diventato l'unica fonte di sostentamento, e mio padre ci disse: ho bisogno di scrivere quello che provo. Qualche tempo dopo gli regalai un quaderno di quelli grandi e passava intere giornate a scrivere in campagna. Quando completò anche l'ultima pagina disse a me e a mio fratello: guardate per favore se ci sono errori di ortografia. E io quasi piangevo dopo aver letto le prime pagine di quella storia, una storia della nostra famiglia vessata dal pizzo. Il giorno dopo mio padre era davanti al maresciallo dei carabinieri a denunciare. Poi è tornato a casa, si è chiuso in una stanza, non è più voluto uscire, aveva paura, ha perso 50 chili e non ha raccontato a nulla, a nessuno in famiglia, di quello che aveva vissuto nella sua vita. È così anche con la fatica, il dolore di liberarsi di questo pizzo pagato per 30 e più anni, racconta Tommaso Toia su Repubblica. Ma tutti i giornali dedicano una pagina a questo. A Bagheria Provenzano aveva la casa popolare. Pensate il titolo di pagina 17 del Fatto Quotidiano. Si è scoperto anche questo, racconta Sandra Rizza. Binnu Provenzano aveva la casa popolare del comune. C'è Alfano che fa un'intervista a Avvenire e trionfalmente, per la verità, annuncia: la mafia è in ginocchio, ora però, dice, aiuti a chi denuncia. Questa è la posizione del ministro dell'interno. Vi segnalo dall'estero la notizia secondo me più importante, è quella che fa pensare sempre più possibile la via di un attentato nei confronti dell'aereo della Metrojet caduto, decollato a Sharm el-Sheikh in Egitto e diretto in Russia. È perché i russi rilanciano la pista terroristica. Il Cremlino dice: non si può escludere un attentato, l'aereo non è caduto per un'avaria, e si ipotizza come idea più diffusa quella di una possibile bomba a bordo, forse in un bagaglio. Questo almeno racconta l'esperto Gregory Aleghi, che è docente di storia dell'aeronautica alla LUIS e, intervistato dalla Stampa, dice: nessun cedimento strutturale, avrebbero lanciato l'allarme, è difficile che un aereo si spezzi in due, è più facile l'ipotesi di una bomba. Ovviamente chissà se sapremo mai la verità, come succede in questi casi. È chiaro che c'è anche un interesse, forse sicuramente da parte dell'Egitto, a non confermare quello che sarebbe un durissimo colpo per il turismo. Sta di fatto che l'idea di una bomba è un qualcosa di molto molto possibile secondo molti esperti. Vabbè, siamo quasi in chiusura, vi devo segnalare, lo faccio anche in diretta su Periscope, che Vanna Marchi è completamente libera, ha scontato la sua pena anche ai servizi, agli arresti domiciliari, ai servizi sociali, cos'è che stava facendo. Comunque, fine pena per Vanna Marchi, che annuncia sul giornale: tornerò in TV. E andiamo! Vanna Marchi, forse con qualche ospitata in trasmissioni televisive, ma lei vorrebbe proprio un programma tutto suo. Tornerà in TV Vanna Marchi a 73 anni, d'accordo? Ve la ricordate? E vabbè, poi c'è la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. I miei amici di Libero, una pagina intera sul fascino sexy della pipa. La pipa. La pipa, la pipa. Il fascino sexy della pipa. Ma perché il fascino sexy della pipa? Boh. Non lo so. Ma chi se ne frega!